sul cappello che noi portiamo. C'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera. Su per i monti a guerreggiar, oi la la. Su per i monti che noi saremo, coglieremo, coglieremo stelle alpine per portarle alle bambine, farle piangere, sospirar, oi la la. Su bei monti che noi saremo, pianteremo, pianteremo l'accampamento, brinderemo, brinderemo al reggimento. Viva il sesto degli alpini, oi la la. E viva il reggimento, e viva il sesto degli alpini, e viva il reggimento, e viva.